Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Per cominciare oggi un numero, 32.300. Sono gli euro che rappresentano la quota di debito che ciascun neonato, secondo Adusbef e Federconsumatori, si trova a dover sopportare quando vede la luce nel bel paese. Un peso tutto spostato ovviamente sulle nuove generazioni. Per dirla con il presidente della Repubblica Napolitano, è un dovere morale della politica e delle istituzioni abbattere questo debito. Non possiamo scaricarlo sui giovani. Teniamone conto quando poi fanno le valigie. Oggi dedichiamo la nostra puntata a quella che amiamo definire la classe dirigente mancata dell'Italia. Giovani dal profilo e dalla competenza internazionali che hanno studiato o stanno studiando all'estero con esperienze di lavoro oltre confine. Ne andiamo a intercettare una fetta molto rappresentativa. Parliamo degli studenti dei prestigiosi MBA americani. Dopo 6 anni di lavoro e 4 anni da manager ho acquisito una mappa mentale di come un business funziona, di quali sono i problemi. Quindi ho capito che ero pronto e quindi ho fatto domanda per un MBA. Christian Ferri, 29 anni, è un imprenditore e studente di MBA negli Stati Uniti. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Via dal nord, i giovani veneti vogliono emigrare. Secondo un'indagine della Fondazione Corazzina, sognano un futuro altrove. Il 19% mira a uno Stato europeo, i più gettonati Inghilterra e Spagna, poi Germania e Francia. L'8% punta a una meta ancora più lontana, in pole position gli Stati Uniti. La motivazione principale resta quella del lavoro. In un caso su 3 contano realizzazione professionale e possibilità occupazionali. E secondo l'Osservatorio Provinciale del Mercato del Lavoro, i laureati lecchesi sono sempre più costretti ad abbandonare il territorio lacustre. Le imprese lecchesi si posizionano infatti al primo posto in Italia per l'assunzione di diplomati e solo al 72esimo per quella di laureati. Il risultato? Oltre la metà dei dottori lascia la provincia, dove si è più che duplicata la disoccupazione giovanile. Questo paese non si ama a sufficienza quando non prende sul serio le generazioni con maggiore spinta innovativa, così il presidente della CEI, Cardinale Angelo Bagnasco. I giovani hanno pagato il prezzo più alto della crisi. Tra il 2008 e il 2011 si sono persi in Italia 1,2 milioni di occupati under 40. Contemporaneamente i lavoratori over 40 sono aumentati del 5,2%, colpita anche l'imprenditoria giovanile. Tra il 2007 e il 2011 si è registrata una diminuzione del 17,1% di under 40. I dati sono dell'ufficio studi Confartigianato. Sul fronte del lavoro giovanile, dati allarmanti emergono dai primi mesi 2012. Secondo Bachelor, il 51% delle 3.000 imprese sondate ha smesso di assumere neolaureati in attesa della riforma del lavoro, quasi il doppio rispetto a gennaio. Un'intera generazione di neolaureati corre il rischio di perdere il treno lavorativo, afferma l'azienda. E per Manpower, nel secondo trimestre 2012 il mercato italiano resta debole, la previsione di assunzioni appare però in crescita. Dove studiare all'estero? Secondo il QS World University Ranking, Parigi è la città ideale, seguita da Londra e Boston. Unica italiana in classifica, Milano, solo 21esima, e nella classifica delle migliori 100 università del mondo, secondo la rivista Times Higher Education, non figura alcun ateneo italiano. Ancora fortissima in Italia la correlazione tra iscrizione all'università e presenza di laureati in famiglia. Proseguono gli studi l'83% dei diplomati con almeno un genitore con elevato titolo di studio. Lo sostiene Alma Diploma. E nonostante le classifiche internazionali rivelino come l'Italia abbia circa il 14% di laureati in meno rispetto alla media europea, calano le iscrizioni nelle nostre università. Per il MIUR solo il 59% dei diplomati 2011 ha scelto di proseguire gli studi. La percentuale scende sotto il 50% al sud. Per l'Unione degli Universitari, nel biennio in corso il numero degli immatricolati rappresenta la percentuale più bassa degli ultimi 30 anni. Ora una buona notizia, stop alle raccomandazioni. L'invito sarebbe stato rivolto dalla multinazionale IKEA a un politico abruzzese in occasione della campagna di reclutamento per 220 posti di lavoro a San Giovanni Teatino. Oltre 30.000 le candidature pervenute, con la politica locale molto attiva nell'interessarsi alle selezioni. Di qui l'invito della multinazionale svedese a smetterla con le pressioni. Accelera ha lanciato un concorso per partecipare al Graduate Studies Program 2012 della prestigiosa Singularity University presso il centro di ricerca NASA Ames in California. Per partecipare occorre un progetto che migliori la vita di almeno 3 milioni di persone in Italia nei prossimi 3 anni grazie a innovazione e tecnologia. Info su accelera.eu. Un motivo per restare o tornare. Un motivo per venire in Italia, potremmo dire stavolta. Il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo che introduce la Blue Card europea per attrarre in Italia lavoratori extracomunitari altamente qualificati. Obiettivo: incentivare l'arrivo dei cervelli nel nostro paese. La Blue Card introdurrà un permesso di lavoro preferenziale di 4 anni destinato a chiunque presenti requisiti formativi elevati. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: la Francia cerca medici stranieri per ospedali pubblici e cliniche private. Info a monica@gtj-medical.be. Eurocontrole alla ricerca di neolaureati in ingegneria, scienze, legge ed economia per un programma di inserimento a Bruxelles. Scadenza per i CV 31 maggio. Info su eurocontrol.int. E infine il Kiel Institute for the World Economy in Germania è alla caccia di un ricercatore economista. Scadenza per il 16 aprile, info su ifw-kiel.de. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci mantiene negli Stati Uniti. Questa volta siamo a cavallo tra la costa est e quella ovest. Nome: Christian. Cognome: Ferri. Età: 29 anni. Città di origine: Conegliano, Treviso. Studi: triennale in economia aziendale e MBA. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2005. Per andare dove? San Francisco. Perché? Stage lavorativo. Quale lavoro svolge attualmente? Studente MBA, consulente. Dove? A New York. Tornerai? Sì, quando sarò in pensione. Ci piace iniziare la tua puntata, Christian, con una bella iniezione di energia pura. Bruce Springsteen ci introduce alla tua rinascita, tutta made in USA. Piccola premessa, ci hai contattato dopo aver ascoltato proprio Giovani Talenti, la storia di Giovanni Masini, ora imprenditore in Polonia, ma prima ancora tuo compagno di classe. E hai scritto a giovanitalenti@radio24.it: da expat negli Stati Uniti ho provato la stessa frustrazione di Giovanni quando mi trovavo in Italia. Avevo una grande voglia di cambiare, di respirare qualcosa di nuovo. Gli Stati Uniti sono stati meritocratici e mi hanno consentito di crescere. Christian, perché all'estero c'è terreno fertile e in Italia prevale la frustrazione tra i giovani? Qui abbiamo certe più opportunità e con ciò intendo più lavoro, meno tasse, più possibilità di muoversi. È tutto basato in un certo senso su quello che sai fare, sul futuro, se produci risultati. Un passo indietro ora, Christian, ti laurei, titolo triennale in economia Udine nel 2004, lasci però il sistema universitario nauseato. Perché? Ero nauseato dal non senso dell'istruzione universitaria italiana, nel senso che leggi, dove in un certo senso la pratica è lasciata al datore di lavoro, che alla fine non ti assumerà perché altrimenti come fa licenziati se dovesse. È tutto basato sulla teoria e purtroppo non sulla pratica. A questo punto si pone per te un problema più esistenziale. Quali erano in breve le tre opzioni che ti portano a fare la valigia e prendere il volo lontano dall'Italia? La prima opzione erano 35 anni in banca, dove un bel giorno dopo essere andato in pensione sarei morto di attacco cardiaco. La numero due era bambinaio a Londra. La numero tre era chitarrista dilettante in cerca di imitare Van Halen. Diciamo che nessuna era molto attraente, potremmo dire, e ti faccio però una domanda a bruciapelo. Secondo te in Italia i giovani vivono o sopravvivono, Christian? Secondo me sopravvivono, però la maggior parte non se ne rende conto perché è talmente assorbito dal sistema. Hanno bisogno di uscire dall'Italia per vedere come il resto della gente vive. Solo così, secondo me, riusciranno a svegliarsi. Cambio paese, cambio continente, cerco di nascondermi tra la gente, ma è la mia di A questo punto la tua vita prende una svolta netta e radicale. Lasci perdere l'ipotesi della laurea specialistica, spedisci curricula a raffica in giro per il mondo finché un'azienda italiana con sede a San Francisco non ti chiama per uno stage, ovviamente non pagato, in marketing. Ma è l'occasione che aspettavi. Quanto è stato forte lo shock e l'impatto culturale con la West Coast americana? Tremendamente forte. Non riuscire a esprimersi come si vuole, almeno per me l'impotenza della lingua per me era la cosa peggiore. Non capivo tutte le tipologie di conversazioni, sono molto diverse da quelle italiane. Nel giro di qualche mese finiscono anche i tuoi risparmi e per te comincia una vita molto low cost. Vogliamo raccontare a chi si ostina a dipingervi come dei bohemien, figli di papà in giro a spassarvela per il mondo, come vivevi nel periodo più difficile della tua vita negli Stati Uniti? C'è stato un periodo dovuto a dei problemi burocratici pesanti, non potevo essere pagato, ho dovuto lasciare l'appartamento dove stavo, vivere su un divano da un amico, per pagarmi diciamo gli alimenti ho dovuto insegnare italiano e chitarra. Per 3-4 mesi sono andato avanti così, vivevo con un dollaro al giorno. Avresti potuto scriverci un libro. Ma ce l'ho fatta. La svolta nella tua vita oltreoceano però giunge a un certo punto quando a Las Vegas il direttore di una grossa società di cucina italiana ti propone di divenire manager per il gruppo gestendo la rete di negozi della West Coast. Cosa l'aveva colpito del tuo profilo? Da quello che mi è stato detto, l'esperienza che avevo avuto in America fino a quel momento, il fatto che ero venuto negli Stati Uniti da solo, la conoscenza della lingua, dell'accento che avevo studiato e penso anche la capacità poi di connettere con gli americani che avevo imparato durante quel periodo di shock culturale che ho avuto appena sono arrivato in America. Andiamo avanti un po' nella tua storia perché le cose poi cominciano a girare per il verso giusto, arrivi a gestire 11 dipendenti, ottieni la carta verde, divieni a tempo perso anche istruttore nei corsi di leadership e poi però un lutto familiare ti riporta in Italia, ti dimetti, ma come spesso accade i periodi negativi portano con sé risvolti positivi. Per te si apre presto una nuova vita da imprenditore sempre oltreoceano. Ci spieghi meglio come nasce l'idea e cos'è Impression Now Consulting che hai cofondato? Quando sono tornato in Italia, perché mio padre è passato miglior vita. Un amico da Milano mi ha chiamato chiedendomi se potevo aiutarlo a aprire una filiale in California, e da lì ho capito che avevo delle qualità, che potevo vendere aziende, che avevo bisogno. Così con un amico, Marco Sarnesi, abbiamo deciso di aprire e fondare questa società di consulenza per aziende europee che vogliono espandersi negli Stati Uniti. E abbiamo fatto diversi progetti insieme ed è stata una fantastica esperienza. E dall'anno scorso frequenti un MBA, sei stato infatti ammesso alla Cornell University nell'area newyorkese. Perché questa scelta di ricalibrarti a livello formativo? Ho sempre voluto continuare i miei studi, quindi dopo 6 anni di lavoro e 4 anni da manager ho acquisito una mappa mentale di come un business funziona, di quali sono i problemi, quindi ho capito che ero pronto e quindi ho fatto domanda per un MBA. Al di là del forte valore che l'MBA ha negli Stati Uniti, tu pensi che una formazione del genere potrebbe mai servirti se domani volessi rimetterti in gioco in Italia? Probabilmente solo con aziende multinazionali. Mi ricordo una storia che vera, che qualche anno fa un caro amico italiano che aveva fatto l'MBA qui in America tornò in Italia e mentre lo intervistavano per un lavoro gli chiesero cosa fosse quella strana nomenclatura alla fine del CV che diceva MBA. Magari pensavano parlasse di basket. Probabilmente sì. Confondendo l'NBA. Introduciamo ora con un po' di anticipo rispetto al solito l'ospite della trasmissione, Nunzio Di Giacomo, responsabile comunicazione dell'associazione Nova, organizzazione che riunisce oltre 1000 tra manager, imprenditori o economisti che hanno conseguito o stanno conseguendo un MBA negli Stati Uniti. Nunzio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. In poche parole, cos'è un MBA? Sicuramente non è una lega cestistica, si tratta di un master in business administration, cioè in amministrazione aziendale e management se vogliamo, della durata di 1 o 2 anni a seconda se viene conseguito negli Stati Uniti o in Europa, un percorso di studi molto internazionale perché lo studente viene immerso in classi dove si trovano oltre 50 nazionalità diverse, corsi che mirano a sviluppare sia le cosiddette hard skills, quindi competenze tecniche di management, che soft skills, quindi competenze di gestione delle persone, di negoziazione e di presentazione. Nunzio, noi abbiamo già parlato in passato qui a Giovani Talenti di Nova. Vogliamo raccontare questo mondo di expats, tutti con un MBA, tutti con un'alta formazione. Possiamo definirla una classe dirigente potenziale all'estero? Sicuramente. Nova è un'associazione che riunisce tutti coloro che stanno conseguendo un MBA negli Stati Uniti o lo hanno conseguito. È un'associazione abbastanza giovane perché è stata fondata agli inizi del 2000. Oggi conta più di 1000 associati tra imprenditori, manager che occupano primarie posizioni presso multinazionali, istituzioni finanziarie e società di consulenza. Domanda di rito, Christian, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? La vedo come una grossa macchina inefficiente, ormai vecchia e stanca, che si sta piano piano spegnendo. La prima cosa che farei è diffondere un senso reale di nazionalismo. La seconda è togliere tutte quelle barriere che impediscono la crescita. E terza, diminuire il carico fiscale sia persone fisiche che aziende. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Christian Ferri, 29enne imprenditore e studente di MBA negli Stati Uniti, una laurea in economia alle spalle. Christian si tuffa subito nel mondo americano sfruttando uno stage. La scommessa non si rivelerà però semplice, la vita negli Stati Uniti lo metterà a dura prova presto. Lì si presenta un'occasione di lavoro come manager, poi dopo una parentesi in Italia opta per tornare oltreoceano, aprendo una sua società di consulenza che affianca aziende tricolori ed europee intenzionate ad espandersi negli Stati Uniti. Attualmente Christian è studente di MBA nei pressi di New York, è cosciente che questo titolo sul mercato del lavoro italiano non viene apprezzato quanto meriterebbe, ma apprezza maggiormente la grande crescita personale e professionale che una simile carriera gli garantisce. Di nuovo in linea con noi Nunzio Di Giacomo, portavoce di Nova, l'associazione che riunisce oltre 1000 dei nostri studenti ed ex studenti di MBA negli Stati Uniti. Allora Nunzio, poco fa abbiamo parlato della scarsa attrattività che esercita l'Italia su questa classe dirigente potenziale, cioè titolare di un MBA. Andiamo a esaminare ora i motivi. In primis, non ce lo nascondiamo, il salario. Di quale gap parliamo tra Stati Uniti e Italia? Sicuramente parliamo di un gap rilevante che si aggira intorno al 25-30%, dovuto al fatto che la struttura salariale americana è sicuramente più competitiva rispetto a quella italiana, ma allo stesso tempo in Italia, essendo l'MBA un titolo di studio poco conosciuto, gli viene in qualche modo attribuito un valore diverso in termini salariali. Quindi negli Stati Uniti si paga di più perché si riconosce la validità di questo tipo di esperienza rispetto all'Italia. Poi diciamocela tutta, forse ancora più importante qui è il percorso di crescita. Di nuovo, prendendo il caso degli Stati Uniti, il percorso di crescita è chiaro e immediato fin dall'inizio. A 3 anni dal conseguimento dell'MBA, lo studente ha raddoppiato il proprio salario d'ingresso e si vede prospettare delle posizioni di carriera molto avanzate che in una realtà come quella italiana, dove se non hai i capelli bianchi molto spesso una posizione manageriale non te la danno, sicuramente questo rappresenta un fattore di scarto importante per il nostro paese. E qui entra in gioco un aspetto culturale, senza contare, Nunzio, gli ostacoli settoriali che tagliano le gambe a quei pochi giovani con un MBA che provano a farcela qui. Il primo è strutturale, l'ambito finanziario è poco sviluppato, il secondo, forse ancora più grave, riguarda chi vuole tornare per aprire un'impresa. Quanto un ambiente asfittico, chiuso e poco sviluppato allontana chi ci vuole provare? Certamente se l'interesse dello studente è la finanza, l'Italia paga un po' il prezzo di un mercato finanziario che in alcuni settori, quali mi viene in mente i fondi di investimento e le banche di investimento, non è così avanzato come gli Stati Uniti o la Gran Bretagna. Dal punto di vista imprenditoriale sappiamo bene gli ostacoli che oggi un imprenditore ha in Italia nel lanciare una nuova attività, soprattutto rispetto a un paese come gli Stati Uniti che potrei definire più business friendly. Christian, hai una domanda per Nunzio? Quanti MBA italiani diventano imprenditori a breve dopo essere usciti dal programma e quanto secondo te vale un MBA per qualcuno che ha mire imprenditoriali? Sicuramente una percentuale che sta crescendo molto nell'ultimo periodo, siamo vicini al 10% per gli studenti MBA, ed è sicuramente l'MBA un veicolo importante per avviare una nuova attività. Non nascondiamoci, negli Stati Uniti è più facile trovare dei finanziamenti se hai un MBA in tasca che ti accompagna. Ora Nunzio, arriviamo all'allarme che hai lanciato, un allarme che sottoscrivo. L'Italia è di fronte a un ricambio generazionale della sua classe dirigente. Se non si apre al mondo, se non esce dal provincialismo in cui si è cacciata affrontando la globalizzazione e affidando le chiavi della sua gestione futura a una classe dirigente dalla formazione internazionale, può correre grossi rischi. Quanto è cruciale, Nunzio, fermare lo spreco di talenti all'estero coinvolgendoli in un progetto paese? È assolutamente determinante. Io sono convinto che l'Italia entrerà tra breve in una sorta di rinascimento economico, no? Dove rifiorirà l'attività imprenditoriale, dove la classe manageriale verrà inevitabilmente rinnovata. E ritengo che protagonista di questo rinascimento non possono che essere i neodiplomati MBA o comunque chi ha un titolo di studio MBA che per formazione, caratteristiche e preparazione può sicuramente, deve assolutamente giocare un ruolo determinante per questa rinascita del nostro paese. Grazie a Nunzio Di Giacomo di Nova, in bocca al lupo a voi e anche all'Italia. E per chiudere, domanda di rito a Christian Ferri: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Non perdere mai la speranza. Quella è la cosa più importante, continuare ad andare avanti fin quando viene fuori, e le cose poi gireranno, come sono girate per me. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova immigrazione. Oggi apriamo la consueta finestra su italiansonline.net, la più grande comunità virtuale e non di expats italiani. Andiamo, anzi, torniamo in Spagna. Maurizio Trezza, amministratore di Yol Madrid. Madrid è una città che ha una popolazione italiana, comunque in generale molto giovane per quello che va degli italiani, ed è molto volatile. Che tipo di emigrazione è quella dei giovani professionisti a Madrid? Ci sono quelli che vengono perché non riescono a trovare assolutamente uno sbocco in Italia e purtroppo si affacciano sul sito e si vedono con alcune esperienze proprio nel cercare un lavoro. E poi ci sono quelli che vengono mandati in trasferta all'azienda. Io ho conosciuto periti chimici, ingegneri, gente laurea in informatica, insomma. Però la tipologia di professionisti che stabilmente poi risiede a Madrid, che lavori fanno? Sono persone che si occupano o di vendita così nel settore commerciale o sono prevalentemente tecnici, ingegneri, informatici, consulenti. Io stesso sono un consulente informatico. È un tipo di flusso migratorio dei nostri giovani professionisti che continuano nonostante la crisi, oppure si sta verificando un'inversione di tendenza? No, continua soprattutto per la crisi. Spesso sul sito si affacciano persone che decidono di venire via, più che emigrare direi di provare un'altra realtà. Cioè, paradossalmente la Spagna, che è in crisi, che ha grossi problemi economici, resta comunque più attrattiva dell'Italia. Resta attrattiva come possibilità. Però dovendo fare un bilanciamento, sono più quelli che tornano o quelli che arrivano? In questo momento sono più quelli che tornano, chissà. Tra chi arriva, qual è la motivazione principale? Un po' tutto, perché sicuramente c'è la necessità di cercare qualcos'altro, perché in Italia non hanno sbocchi. Poi c'è appunto questo tantam della Spagna come un posto in cui la qualità della vita è buona, la cultura non è molto diversa dalla nostra, la lingua è facile da apprendere, la distanza non è eccessiva all'Italia, è una somma di fattori. E tra chi arriva è più alto il tasso di chi ha una laurea, di chi comunque ha una qualifica di alto livello o no? No, io direi che sono più quelli che arrivano, mi piange il cuore dirlo, ma senza neanche parte. Al di là delle difficoltà economiche della Spagna, prevale comunque, come dire, un ambiente meritocratico dove chi ha una professionalità da spendere può farcela, può avere quell'occasione che magari gli manca in Italia? In determinati settori sì. Quali? Nel mio per esempio sicuramente. Per chiudere l'ultima domanda riguardo le attività di Yol Madrid, quali sono, diciamo, quelle più frequenti? Le attività sono sicuramente di assistenza a persone che in qualche maniera ci contattano